Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare del caso dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo di Modena, che è riuscita ad attivare negli ultimi 2 o 3 anni circa 20 milioni di investimenti privati, questo è fondamentale, privati, su invece edifici, quindi sul patrimonio pubblico, al fine di renderlo più efficiente, di ridurre anche la bolletta del comune. Ieri abbiamo visto che tutta questa attività è partita dall'Agenzia per l'Energia di Modena, che si è riuscita ad aggiudicare un finanziamento previsto dal programma Elena. Questo programma che cosa fa? Finanzia con un 90% di finanziamento a fondo perduto quegli enti che localmente programmano tutte le attività necessarie appunto a rendere più sostenibile il territorio, quindi nuove infrastrutture energetiche, efficientamento degli edifici pubblici, anche nuove infrastrutture viarie e quant'altro. Dopodiché il vero problema è trovarli questi finanziatori privati, cioè costruire dei progetti che effettivamente stiano in piedi, sia dal punto di vista del pubblico ma anche dal punto di vista del privato, che notoriamente diciamo non fa beneficenza. A Modena sembra che siano riusciti a trovare la quadra. Ci facciamo spiegare il segreto insomma di questo successo da Pier Gabriele Andreoli, che appunto è direttore dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Bentornato Andreoli. Grazie, buonasera di nuovo a tutti. Ordunque, PPP, partnership pubblica-privata, parola mitica, viene invocata quasi come una sorta di apparizione divina. Vuol dire che il privato ci mette i soldi per un'infrastruttura pubblica. In Italia però questa roba alla fine non è che funzioni molto spesso. Voi invece avete una serie di modelli che hanno funzionato sul lato energia. Quali sono? Diciamo che abbiamo sperimentato molto proprio grazie al progetto di cui abbiamo parlato ieri sera, il progetto Elena, e abbiamo messo in campo diciamo tutte dei meccanismi, dei modelli che si richiamano all'Energy Performance Contract europeo, quindi sono meccanismi che prevedono, siamo fortunati in questo caso parliamo di risparmio energetico, per cui un risparmio, e con questo risparmio si possono effettivamente andare a ripagare gli investimenti. In questo caso andiamo a ripagare degli investitori che sono dei terzi finanziatori, quindi i privati. Non esiste ancora un vero e proprio modello normato di EPC in Italia. Noi abbiamo messo in piedi con i modelli che gli strumenti che la normativa ci ha messo a disposizione, abbiamo utilizzato il servizio energia diciamo come tipologia di schema, derivazioni del project financing, le concessioni di disponibilità, quindi diversi schemi, proprio perché avendo affrontato questo progetto Elena una gara alla volta, abbiamo potuto customizzare anche un po' a seconda delle esigenze del comune. Ecco, ma c'è qualcuno di questi meccanismi di partnership pubblica-privata che vi sembra abbiano funzionato meglio? Di recente si è discusso di project financing, cassa depositi e prestiti, è venuto fuori che in Italia è sostanzialmente fallito. Il project finance è un oggetto che è pensato sicuramente per grandi progetti, quindi sull'energia ha un'applicazione molto limitata, diciamo. Ci sono delle forme nuove, si è cercata anche con la concessione di disponibilità. Da un mio punto di vista personale, la gara di servizi, il servizio energia, quello che poi è stato anche normato dal decreto legislativo 115, è quello che ci ha aiutato di più effettivamente ad affrontare questo tipo di gare, ecco. Quello che abbiamo usato di più. Ecco, poi c'è un altro ingrediente molto importante che avete a disposizione lì in Emilia Romagna, che è un fondo rotativo, no? Un fondo per ridurre il costo del denaro che chi poi fa questi interventi deve sopportare. Sì, quindi un fondo rotativo dedicato alle imprese, fra cui anche quelle che possono fare da terzi finanziatori, e questo ha sicuramente aiutato le imprese a agire, ecco, verso il pubblico. Diciamo che il TAEG, diciamo medio, che è stato pagato quindi per queste operazioni, voi l'avete quantificato, è il 3%. Ecco, 3%. Perché purtroppo la maggior parte di queste operazioni si tentano con tassi effettivi che sono del 6 o del 7 e non stanno in piedi, c'è poco da fare. Questa cosa dei fondi rotativi, insomma, qui in trasmissione l'avremmo detto 1 milione di volte, è una delle cose che più servono per attivare queste operazioni. Mi sembra che voi lo confermiate. Assolutamente, insieme con qualsiasi tipo di fondo di garanzia è ben accetto, proprio perché agevolano l'ingresso su progetti, tra virgolette, sicuri, perché i progetti di risparmio energetico sono credibili da un punto di vista tecnico, però la burocrazia comunque, che è anche quella delle, diciamo, dell'accesso al finanziamento e ai crediti, è comunque una burocrazia implacabile. Grazie Andreoli. Grazie a voi, buona serata. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.